è tutto qui. Mi piace quest'idea di eternità, non verità. Colora le mie mani come se tu fossi il mio domani. Allora sì, come un fiore buttato lì sul tuo cuore, io resterò con amore.